A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Don Dallunga l'abbiamo già detto tante volte, poi voglio dire rimarranno, ma che ne so, il mercato è lunghissimo, quindi tutto è possibile nella vita. Questo non vuol dire che sto aprendo al fatto che vanno via, che esiste un mercato, c'è, è inutile. Io un anno fa alle ore 13 non avrei mai immaginato che Nocerino sarebbe arrivato al Milan, quindi facciamo una bella cosa, ma non per Thiago Silva, non dico più niente al mercato. Vi comunicherò alle 19.01 del giorno 31 agosto quale sarà l'organico del Milan, che sarà un organico competitivissimo. E allora era Adriano Galliani. Ibra e Thiago Silva, tutto aperto, dice il titolo di prima pagina della Gazzetta dello Sport, e queste parole di Adriano Galliani un po' sembrano sottolinearlo, altro che rimarranno al Milan sicuramente. Come vedete il mercato è sempre aperto nel calcio, tanto mercato allora oggi, e ne parleremo, ma è anche il giorno del raduno del Napoli, domani avremo tanti spazi proprio sul Napoli, non solo calcio però, come sempre, anche il Tour de France, oggi è la giornata di riposo, quindi avremo modo un po' di analizzare questo fenomeno Wiggins che si avvia a vincere il Tour de France. E poi una bellissima storia che vorremmo raccontarvi, quella di Marco Calamai, ex grande allenatore di basket, che si è dedicato da tanti anni a una cosa molto particolare, basket integrato per persone anche con disabilità intellettiva e relazionale. Una storia veramente bellissima e significativa, quindi vogliamo raccontarvela. Claudio Arrigoni per Radio 24, Laura Vanossi in redazione, Paolo Corleoni in regia. I nostri numeri ve li ricordo: 800 24 00 24, per chi vuole mettersi in contatto con noi, e poi naturalmente i vostri sms al 349 238 6666. Dicevamo tanto mercato. Avete ascoltato Adriano Galliani e sentite anche il direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini. Oggi presentato il brasiliano Dodò, che ha tirato un po' le orecchie a Totti per le dichiarazioni di ieri sul grande colpo della Roma, e ha fatto il punto su quella che è la situazione fra Liverpool e Borini. Sono portato alle iperboli ultimamente, però ho parlato di qualche ragazzo giovane della Roma con molta enfasi, sono costretto a farlo anche per Dodò, perché io ritengo che sia un calciatore straordinario, metterà in campo tutte le sue qualità, la sua corsa, la sua sensibilità tecnica, la sua capacità di giocare con la squadra e per la squadra. Non pretendo e non penso che all'interno della Roma ci debba essere un pensiero omologato e che debba essere uguale per tutti. Lui ha espresso un suo sentimento, una sua esigenza. Per la verità avrei preferito che lui avesse detto: sono alla testa di un gruppo di ragazzi che vogliono fare, combattere e ottenere dei risultati, io li guiderò a questi risultati. Avrei preferito che avesse detto questo, però ha detto anche molte altre cose carine circa i suoi compagni, quindi in qualche maniera si è riabilitato. C'è un reale interesse di questa società per Borini, lo stiamo valutando insieme a Franco, insieme alla società, poi rispetto alle decisioni che prenderemo agiremo di conseguenza. Non è un grande problema in questo momento, è un'opzione che abbiamo, vedremo come la vorremmo inquadrare. Allora era il direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha parlato di Borini, come avete sentito, anche lui aprendo alla questa possibilità Liverpool. Abbiamo sentito di Adriano Galliani, è già arrivato un sms che dice: visto che De Laurentiis ha lasciato a piedi Vanzina, possibile che sia il regista per il Milan? Scrive Marco. Beh, Michele Criscitiello, buongiorno. È possibile che Vanzina possa arrivare al Milan? Naturalmente, al di là delle battute, è un mercato che può apparire un po' scialbo, ma così non è, Michele, vero? Sì, buongiorno direttore. Buongiorno. Probabilmente in questo momento più che Vanzina ci vuole qualcun altro che faccia ridere, però ovviamente più che ridere il Milan ha bisogno di cose serie. Ieri su Sport Italia speciale calciomercato l'abbiamo definito forse uno dei raduni degli ultimi 10 anni non più tristi, ma di sicuro meno spettacolari del Milan. Va bene Acerbi, va bene Traoré, va bene quando arriverà Montolivo, va bene Costante, vanno bene i parametri zero, ci mancherebbe, in un periodo di difficoltà economica, e ieri ha parlato benissimo Adriano Galliani come al solito, facendo facendo anche riferimenti alla Fiat e alla difficoltà del paese in questo momento economico. Il Milan non può permettersi assolutamente di fare grandi acquisti, anche perché io ricordo quando intervenne nel giorno di Thiago Silva Silvio Berlusconi in diretta nella mia trasmissione, lui ha detto espressamente: è il periodo economicamente più difficile per la mia famiglia, riferendosi ovviamente al Lodo Mondadori. Per quanto riguarda invece le tue frasi, ti sentivo, ti ascoltavo con attenzione, sei stato puntualissimo come sempre direttore. Per quanto riguarda la situazione di Thiago Silva e Ibrahimovic, è vero, Galliani non ha chiuso, secondo me invece Ibrahimovic è un capitolo ancora aperto e lo sarà fino al 31 di agosto ore 19.01 ore 18.59. Aspetteremo quindi Galliani, che in quel momento ci dirà qualcosa. Non ci credo che Galliani parlerà di mercato solo alle 19.01 il 31. Thiago è chiuso, Thiago resta con il rinnovo a 6 milioni, resta, quindi i tifosi del Milan almeno in difesa possono stare più che tranquilli. Beh, questa è una grande notizia, quindi tu dai per sicuro che Thiago non si muova. Certamente non devo esserlo io che non ho... Michele, sai che seguendo per Sport Italia così bene il mercato, come fai e come fate, insomma, certe notizie arrivano un po' prima di altri. Nel momento in cui rinnovi il contratto, lo adegui a 6 milioni di euro dopo che il presidente Berlusconi rilascia certe dichiarazioni, io il capitolo Thiago Silva lo chiudo, mentre non chiudo assolutamente quello Ibrahimovic. E ci sono un po' di cose naturalmente che non riguardano solo il Milan, però visto che c'è stato questo raduno, che ieri hai detto bene, è stato veramente un raduno in sordina, ieri noi l'abbiamo affrontato veramente poco, a parte che hanno parlato dopo l'inizio della nostra trasmissione, ma al di là di questo si notava un po' che c'era qualcosa insomma di minore rispetto al passato, anche se Galliani ha confermato gli obiettivi campionato e andare avanti in Champions senza problemi. Tu ritieni, io guarda, sul Milan ho una mia idea, ritengo che con Pato a disposizione al 100% la rosa sia già estremamente competitiva adesso, non so come la pensi tu Michele. Ma io per quanto riguarda l'attacco non muovo neanche la singola critica al Milan, perché se Pato sta bene, però questo se è grande quanto la Villa di Arte. Certo, esatto. Poi c'è un altro problema, che noi parliamo dell'attacco, ma se c'è Ibrahimovic e questo se non è grande quanto la Villa di Arcole, ma quanto la Villa Certosa in Sardegna di Berlusconi, il problema principale è la difesa, è una difesa che perde Alessandro Nesta, d'accordo tieni Thiago Silva, ma è una difesa che va rinforzata, il centrocampo hai perso Seedorf, hai perso Gattuso, d'accordo che non erano più quelli di una volta, probabilmente nell'ultimo anno Gattuso non c'è neanche stato, ma infatti lo scudetto l'hai perso. Il problema in questo momento è che manca lo spogliatoio. Cosa voglio dire? Chiariamoci, manca lo spogliatoio perché il Milan ha perso tutti i pezzi da 90. È un problema di campo, ma è un problema anche fuori dal campo. Io non considero un leader assoluto in panchina Max Allegri per gestire lo spogliatoio. È di sicuro un bravo e bravissimo allenatore, un grande tattico. Ma attenzione, c'è un problema. Nell'anno in cui perdi Nesta, Inzaghi, Gattuso, Seedorf, perdi pezzi da 90, calciatori importanti, secondo me in questo momento al Milan, nel Milan, ci potrebbe essere un vuoto di potere. Tantissimi sms che stanno arrivando per te Michele, te ne leggo qualcuno naturalmente. Puoi chiedere a Criscitello, dice Alex da Como, se Jovetic e Destro possono arrivare alla Juve, chi partirebbe in attacco? Ma neanche possiamo rispondere a questa domanda, perché prima c'è il se arrivano Jovetic e Destro. Jovetic, da quello che ieri ha detto in studio da me Daniele Pradè, è stato sincero, chiaro e categorico. Jovetic parte soltanto per una cifra sopra i 30 milioni di euro. La Juventus 30 milioni per Jovetic non li mette. La Fiorentina non è intenzionata ad accettare contropartite tecniche, anche perché Matri guadagna 3,5-4 milioni di euro a stagione. La Fiorentina questi ingaggi non può permetterseli. Per quanto riguarda comunque le uscite della Juventus, la Juventus ha in uscita uno come Fabio Quagliarella, l'altro che potrebbe certo uscire se dovesse entrare un altro invece Alessandro Matri, questo non è assolutamente un mistero. E anche altre squadre, il Bologna, ci chiedono novità sul mercato del Bologna, Gabriele? Dice Gabriele da Bologna appunto. Sì, Gabriele, fa bene a fare questa domanda. Il problema è che se il Bologna deve decidere cosa fare tra uno tra Diamanti e Ramirez, perché nel momento in cui Ramirez va via si fa un tipo di mercato, se dovessero restare entrambi, cosa in questo momento un po' più complicata, si fa un altro tipo di mercato. Una quasi certezza invece sarà l'arrivo via Juventus, dopo che chiuderanno l'operazione Atalanta e Juventus, ed è quello di Manolo Gabbiadini. Per quanto riguarda Elkeson siamo abbastanza avanti, la difesa e il centrocampo comunque avranno almeno 2-3 rinforzi. Pioli secondo me ha indicato 2 calciatori molto importanti, a mio avviso Mantovani potrebbe essere una soluzione, però ad oggi siamo ancora lontani. Con Michele Criscitello a parlare di calciomercato. Michele, ti ripeto, tanti gli sms al 349-238-6666. Molti non sono d'accordo sulla tua affermazione riguardo la difesa del Milan. Paolo da Udine dice: la difesa del Milan scarsa, Bonucci, Barzagli sono meglio di Thiago e Mexes. Poi ancora Tristi, caro Criscitello, Acerbi è un grande difensore, nel giro di poco tempo sarà un punto fermo anche della nazionale, eccetera eccetera, ma queste sono naturalmente opinioni. Invece andrei sulla Roma. Abbiamo sentito prima Sabatini, non so se l'hai ascoltato, Michele. Sì, assolutamente. Quindi c'è insomma questa apertura su Borini, e fra l'altro un sms che dà un po' ragione a Sabatini riguardo a quello che ha detto su Totti. Dice: Zema non ha bisogno di top player, vince attraverso il gioco. Che ne pensi? Allora, innanzitutto che Walter Sabatini ovviamente è una vecchia volpe, e quindi innanzitutto spieghiamo che il Liverpool su Borini non c'è da ieri. Noi avevamo dato la notizia 14 giorni fa, ma non perché siamo bravi o perché siamo belli, semplicemente perché il Liverpool aveva messo in cima alla lista dei desideri Borini. Infatti prima ancora che fosse riscattato dalla Roma, la Roma già sapeva che poteva permettersi di riscattare il giocatore per 5 milioni di euro dal Parma, semplicemente perché dietro già c'era il Liverpool a sborsarne qualcun altro. Nel frattempo la Roma si è mossa prima degli altri sulla trattativa destro, perché infatti la Roma ha chiesto metà Castellino al Genoa, poi le cose sono andate come tutti sappiamo. E poi rispondo alla tua domanda, però finisco questa notizia, sì, di mercato, perché il Siena in questo momento ha metà Castellino, il Genoa ha l'altro metà Castellino di destro, ma alla fine il Genoa prenderà la metà del Siena per 6 milioni di euro, 4 milioni di euro cash più 2 milioni di euro con partecipazioni di giocatori. A quel punto il Genoa sarebbe e potrebbe essere libera di dare la propria metà alla Roma, che però non ha i soldi invece per acquistare l'intero Castellino di destro. Quindi questo è il giro che stanno ipotizzando in questo momento lo Monaco e Sabatini. In mezzo c'è Stefano Antonelli, che è il direttore sportivo del Siena, che sta facendo tra l'altro davvero un ottimo lavoro. La tua domanda, ecco la mia risposta: Zeman è bravo a lavorare con i giovani, è bravo a vincere con i giovani, però attenzione, perché alla Roma in questo momento tu bisogna capire cosa intendi per vincere. Se la Roma vuole, certo, fare un progetto negli anni, allora va benissimo Zeman. Se però i tifosi della Roma sono stanchi di aspettare dopo quello che comunque è stato un anno sabbatico sotto la guida di Luis Enrique, allora i giovani vanno bene, ma la Roma ha bisogno anche, come giustamente dice Francesco Totti, del giusto mix, dei giusti top player. Attenzione, la Roma il top player lo scorso anno l'ha preso, almeno se vediamo il bilancio, almeno se vediamo i costi, perché ha preso Eric Lamela, tra commissioni, Castellino ed ingaggio ha speso più di 23 milioni di euro, e sono tanti dalla River Plate. Quest'anno, dopo 71 milioni di euro spesi nel totale tra ingaggi e monte, ovviamente quello che concerne tutte le uscite della prima gestione economica di Sabatini e Baldini, quest'anno hanno tirato il freno a mano per cercare di capire se si può fare un affare. Bradley è addirittura d'arrivo, e chiudo con una notizia, perché il Napoli era forte su Cuadrado, ma probabilmente non farà Cuadrado, perché Cuadrado è ad un passo dalla Fiorentina, lui è un giocatore dell'Udinese. Inter, prima di chiudere, Michele dice... arrivano degli sms naturalmente. Carlo da Cremona scrive: ma è vero che l'Inter sta trattando Andreolli? Strano, è italiano. Che delusione, Stramaccioni sta facendo fuori quei pochi italiani che l'Inter aveva, e va bene, e non solo italiani, perché un altro invece ti chiede di Sneijder. Sneijder è un bel punto di domanda, perché è un punto di domanda perché probabilmente l'Inter, nel momento in cui, qualora dovesse ricevere un'offerta importante allettante, si libererebbe molto volentieri di ingaggi pesanti, così come Giulio Cesare ha insegnato. Per quanto riguarda ovviamente la vicenda degli ingaggi, sappiamo che l'Inter vuole spostare tutti quelli che sono sopra i 3 milioni di euro. gente come Sneijder, gente come Giulio Cesare in questo momento per l'Inter rappresentano un peso. Rispondo anche alla domanda su Andreolli, assistito da Patrick Bastianelli. Andreolli potrebbe rientrare all'Inter, questo lo sappiamo, è tutto confermato, però prima bisogna capire e fare chiarezza sulla trattativa Ranocchia, se davvero resta oppure parte, dopo comunque che l'Inter, lo ricordiamo in difesa, già ha speso 8 milioni di euro per aver acquistato dal Palermo Mattias Silvestre. Michele, ti lascio con due ascoltatori che sono in linea con noi, Francesco da Viterbo. Sì, buonasera. Buonasera, buongiorno. Allora, qualche settimana fa, la settimana scorsa, Lo Monaco, il direttore sportivo del Catania, ha detto che lui preferisce andare in Sud America, in particolare in Argentina, perché prendere un giocatore lì costa 10 volte in meno che prendere un ragazzo, con tutte le speranze poste in un ragazzo, in Italia. Certo. Questo logicamente comporta dei problemi a livello di nazionale, o comunque sia di vivaio, perché comunque sia il vivaio viene ad essere depauperato dall'arrivo di questi giocatori già fatti. Sì. Alla lunga, anche lì si alzeranno i prezzi, diciamo, anche se è brutto parlare di prezzo per una persona comunque sia, questo è il discorso, cioè anche nei paesi, diciamo così, lontani dall'Italia si ha questa tendenza a far pagare dei giocatori giovani, 16, 15, 16 anni. Perfetto, Francesco, capito perfettamente. Roberto da Parma, buongiorno Roberto. Buongiorno, chiedevo un'informazione sul top player della Juve in attacco, se arriva o non arriva. Secondo me, io sono juventino, secondo me non arriva con le cifre, specialmente di ingaggio, che hanno i top player. E anzi, con la situazione economica che c'è, non sarebbe un dramma anche non prenderlo. Ecco, bisogna anche essere qua. Certo che se arrivasse Messi, io ho piacere, cioè ci mancherebbe altro. Però, ma quello la vedo un po' difficile, ma credo che avremmo piacere tutti, anche i non tifosi, sì, juventini, sì, certo, di vederlo anche in Italia. Il top player non si può, anche Van Persie, non è uno da 7-8 milioni netti a stagione. Ecco, secondo me, forse giocatore. Sì, ma ecco, volevo un po' forse parere. Anche l'europeo da questo punto di vista ci ha dato delle indicazioni. Michele, queste due domande, poi ti lasciamo il tuo lavoro per Sport Italia. Rispondo alla prima, ovviamente piccola correzione, il radioascoltatore, pardon, ovviamente, certo. Da Viterbo ha detto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo del Catania, passato al Genoa, e quindi ovviamente, siccome si fa un po', poteva essere anche una notizia questa qui, che di Lo Monaco a Catania, invece è del Genoa, però rispondo che gente come Pierpaolo Marino, Walter Sabatini, Pietro Lo Monaco, gente navigata sul calcio, ovviamente la loro preoccupazione non deve essere valorizzare il giovane, la loro preoccupazione è giustamente fare la plusvalenza, una plusvalenza importante per la propria società, e se il giocatore conviene acquistarlo a 4 milioni di euro stile Ezequiel Lavezzi, venderlo a 28 e avere un ingaggio più basso, è giusto che vada in Argentina e in Brasile. Sta finendo anche lì, perché purtroppo noi con la crisi che abbiamo ci stiamo rovinando da soli. Dall'altra parte invece in Sud America, con il Brasile che praticamente nei prossimi anni avrà tutto, da Olimpiadi al Mondiale, invece si possono permettere degli ingaggi più importanti, vedi con Clarence Seedorf, vedi con lo stesso Diego Forlán. Rispondo al secondo telespettatore, la Juventus il top player in attacco vuole prenderlo, il primo nome sull'agenda di Antonio Conte era quello di Edinson Cavani, ma il Napoli non può cedere Cavani visto che ha già ceduto Ezequiel Lavezzi, altrimenti incendiano il maschio Angioino, ovviamente è una battuta, andiamo avanti. Secondo, il nome di Robin Van Persie è forte, però c'è la concorrenza del Manchester City, sedersi ad un tavolo con una società quando sai che all'altro tavolo c'è il Manchester City, puoi chiamarti Juventus, puoi chiamarti quello che vuoi, ma l'Italia non può permettersi questi tipi di calciatori perché la concorrenza è molto più forte. Il nome più probabile in questo momento, qualora Van Persie dovesse andare al Manchester City, è quello di Edin Dzeko, non visto benissimo da Antonio Conte, ma un vecchio pallino di Beppe Marotta, e soprattutto con un ingaggio sui 4 milioni di euro e non sui 7 milioni di euro come Robby Van Persie. Va bene, grazie Michele, grazie davvero, ti lasciamo al tuo lavoro e ricordiamo a tutti, speciale calciomercato Sport Italia, tutte le sere, come avete sentito, un super esperto per parlare di questo, tantissime sms, ma parleremo di calciomercato naturalmente anche nei prossimi giorni. 800 24 0024 il nostro numero verde, 349 238 6666. Chiedono naturalmente anche di abbiamo già accennato a Destro, un sms dice: per me di Destro se ne sta parlando troppo, come fosse Cristiano Ronaldo, ma per piacere, dice Marcello. È vero, ma questo passa il convento, quindi tra l'altro comunque è uno dei giocatori più di prospettiva, quindi certo il paragone con Cristiano Ronaldo non vale nulla, ma è sicuramente uno di coloro che sono più appetibili in questo momento sul mercato. Ieri raduno del Milan, abbiamo detto con Michele Criscitiello, un raduno un po' in sordina, lui l'ha definito un po' un raduno triste, forse non è così, centinaia di tifosi a Milanello, Boateng il più applaudito, però sicuramente un raduno più in sordina rispetto agli anni scorsi. Ha parlato a lungo Adriano Galliani, ha detto anche diverse cose interessanti, una, dobbiamo lottare per vincere su tutti i fronti, in particolare il campionato, e poi una cosa interessante sugli infortuni. Che cosa ci aspettiamo da questa stagione? Quello che ci siamo sempre aspettati nelle altre 26. Dobbiamo lottare per vincere il campionato. Io non dico mai vincere una cosa, bisogna lottare per vincere. Quindi dobbiamo lottare per vincere il campionato. Dobbiamo cercare di fare bene in Champions League. L'anno scorso siamo arrivati ai quarti, dobbiamo cercare di fare bene la Coppa Italia. E poi pongo un altro, l'allenatore lo sa, un altro obiettivo fondamentale per la prossima stagione è diminuire gli infortuni, e quindi questo lo sanno bene tutti, oltre a raggiungere i risultati sportivi, perché c'è una correlazione assoluta, lo dimostra l'UEFA, fra risultati sportivi e numero di infortuni. Quindi quest'anno dobbiamo fare in modo che gli infortuni da patologici diventino fisiologici, perché nelle squadre di calcio ci si fa male, e questo fa parte della vita naturalmente. L'anno scorso noi ci siamo fatti male un po' troppo. Infortuni dunque in primo piano, preparazione anche di questo periodo in primo piano. Abbiamo ieri parlato a lungo di quella che è la preparazione della Roma, dei metodi un po' duri ma sicuramente che servono, visto quello che è successo lo scorso anno anche a Pescara e le precedenti esperienze di Zeman, quello che sta facendo ora alla Roma. Intanto notizia arrivata in questo momento, Del Piero, ci provano i thailandesi, quindi Del Piero che potrebbe addirittura finire a giocare in Thailandia. Apertura invece per la trattativa fra Mesba e il Torino. Torniamo al Milan, torniamo ad Adriano Galliani, perché ha fatto anche un bilancio di questi ultimi 26 anni di Milan, non sono pochi, epoca Berlusconi. 27 raduni sono tanti. Devo dire che queste 26 stagioni che sono passate sono state 26 stagioni fantastiche. Un periodo che hanno, in cui il Milan per 26 anni è stato nettamente il primo in Italia, non era mai successo. Il Milan è nato nel 1899, mai per 26 anni è stata nettamente la prima squadra italiana. Al di là della qualità dei trofei, noi ne abbiamo vinti molti internazionali. In questi 26 anni, di questo dobbiamo essere grati, ripeto, a Silvio Berlusconi, noi abbiamo vinto 28 trofei, l'Inter ne ha vinti 20 e la Juventus 17. 800 24 00 24, il nostro numero verde, 349 238 6666, invece per i vostri sms. Claudio Arrigoni per Radio 24 a parlare di sport, con Laura Vanossi in redazione, Paolo Corleoni in regia. Lo sport che ci regala, oltre alle notizie anche divertenti e appassionanti del calciomercato che abbiamo seguito in tutta la prima parte della trasmissione, ma che ci regala anche storie bellissime che travalicano un po' lo sport, o forse sono l'essenza vera dello sport, non lo so. Questo ce lo dirà anche Marco Calamai. Buongiorno, io l'ho definito prima ex allenatore di pallacanestro, giustamente Angelo Costa, giornalista bolognese di quelli veri, ci ha subito mandato un sms corretto. Ma come ex? Io sono Marco Calamai, è tuttora un grande allenatore di pallacanestro, ed è verissimo, di una pallacanestro un po' diversa però, Marco, vero? Sì, intanto ringraziovi della vostra telefonata, vi saluto, ti saluto Claudio. Sì, pallacanestro un po' diversa, ma la pallacanestro è una sola, certo. Si va in alto, si tende al cielo, ci si confronta, si gioca una palla. La nostra è una pallacanestro, diciamo, un po' speciale, ma perché sono speciali i giocatori a cui ci rivolgiamo. Uno sguardo verso l'altro, bellissimo libro di Marco Calamai, che parla di questo progetto che è partito anni fa di

voi. No, io volevo chiedere una cosa. Siccome siamo noi tifosi napoletani, siamo abituati alla notizia dell'ultima ora, però si dice che a Napoli uno tra Jovetic e Zarate sicuramente sarà uno di loro l'obiettivo del Napoli. E quanto c'è di vero? Questo volevo chiedere. Lo gireremo naturalmente a Michele Criscitia, lo gireremo questa domanda. Sono entrambi giocatori che potrebbero servire, visto il Napoli che deve ricostruirsi un po', almeno per quanto riguarda l'attacco. Certo, lei ha citato due giocatori che poi bravissimi, anzi in qualche caso anche meravigliosi sul campo da calcio, poi con qualche uscita un po' strana fuori dal campo. Napoli però secondo me sarebbe la piazza perfetta, io vedrei meglio Jovetic di Zarate, però sarebbe la piazza perfetta un po' anche per ricostruirsi per entrambi. Fra poco andremo a parlare di Tour, anzi lo facciamo subito con Piero Augusto Stagi, e una notizia che l'ANSA ha battuto proprio in questo momento: un caso sospetto di doping turba il giorno di riposo del Tour de France. Corridore del Trim Cofidis è stato arrestato oggi nell'albergo a sud-ovest della Francia dove soggiornava, perché è sospettato di aver fatto uso di sostanze illecite. Secondo alcune fonti si tratterebbe del francese Di Gregorio. Non so se ne sai già qualcosa, Piero Augusto, e comunque approfondiremo nelle prossime edizioni naturalmente dei nostri radiogiornali. Buongiorno Piero Augusto Stagi. Ciao, ciao Claudio, no, ti confermo che è stato arrestato Rémy Di Gregorio, un corridore della Cofidis, e sono stati anche posti in garde à vue due presunti spacciatori, fornitori di sostanze dopanti a Marsiglia. Di Gregorio è stato praticamente preso in flagranza di reato perché l'avrebbero intercettato mentre stava chiamando al telefono proprio i suoi due uomini di fiducia, che avrebbero dovuto portare delle sostanze illecite a destinazione in un posto logicamente lontano da occhi indiscreti. Però è un'inchiesta che dura da un anno, era sotto osservazione, era controllato dalla magistratura francese ed è stato preso appunto in col sorcio in bocca, come si suol dire. Quindi una brutta vicenda, l'ennesima brutta vicenda, un corridore, grazie al cielo, perlomeno di basso profilo, che corre per una formazione francese, però certo non è piacevole. Da un lato bisogna guardare sempre un po' il bicchiere mezzo pieno e dire il ciclismo non si scherza, la lotta al doping è sempre molto serrata, sempre molto attenta e nessuno ci scappa, ecco. No, ma infatti Pier, su questo sono assolutamente d'accordo con te, e quando dicono ma vedete il ciclismo è pieno di atleti dotati, no, il ciclismo si combatte il doping anche attraverso lo scoprire questi atleti, il giudicarli e magari in qualche caso anche il condannarli. In altri sport magari, ecco, si sta un po' più attenti a cercare di capire dove, come e chi fa uso di doping. Quindi queste sono, secondo me, sono notizie positive da un certo punto di vista rispetto ad altri sport dove non esce mai niente. Però purtroppo qualche sospetto ce l'abbiamo sempre. Naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri radiogiornali qui su Radio 24 ci terrà informati su questa situazione. Pier, andiamo naturalmente anche sulla gara. Io ieri, vedendo la fine della cronometro, mi è scappato va bene, è finito il giro. Wiggins è così forte, può solo perderlo lui, Pier? Sì, bisogna dirlo con molta serenità, anche se devo dire che in questi tre giorni, dopo una settimana molto noiosa, il tour si è assolutamente acceso. Le due tappe di media montagna, tra l'altro, hanno fatto vedere grande spettacolo, è stato molto divertente. Qui c'è il meglio del ciclismo mondiale, ci sono formazioni assolutamente agguerrite e attrezzate che sono in grado di comunque far saltare veramente il banco in ogni momento. Certo, il Team Sky con Wiggins, con Christopher Froome, questo keniota sudafricano, il keniota bianco, visto che è nato ai Nairobi ed è terzo in classifica, Porte, Michael Rogers, una formazione estremamente forte. Wiggins è fortissimo e soprattutto dalla sua che cosa ha? Questi chilometri a cronometro che sono eccessivi, lo abbiamo detto sin dall'inizio di questo Tour de France, non l'abbiamo mai nascosto, è un problema perché ci sono troppi chilometri contro il tempo e poche occasioni per gli scalatori puri per poter fare la differenza, cioè c'è uno sbilanciamento. Di sicuro Cade Leva e il nostro Vincenzo Nibali cercheranno in tutti i modi di aggredire, di attaccare Wiggins nelle due tappe alpine che ci attendono, domani e dopo, e nelle due tappe pirenaiche che ci saranno la prossima settimana. Dovranno non solo recuperare 2 minuti e mezzo al britannico, ma dovranno addirittura andare, diciamo, credito, perché dovranno portarsi avanti, mettere fine in cascina, perché poi ci sarà una cronometro per l'ultimo giorno, poco prima, alla vigilia proprio dell'arrivo, della grande passerella di Campi Elisi, di una cronometro di 53 chilometri che andrà nuovamente a favorire in maniera molto evidente e molto profonda Wiggins. Quindi questo giro, questo Tour de France è assolutamente nelle mani di questo britannico, che potrebbe essere il primo inglese a iscrivere il proprio nome nella storia ultracentenaria del Tour de France, e potrebbe essere a tutti gli effetti il vero tedoforo delle Olimpiadi di Londra, perché ricordiamo che Wiggins è una delle autorità sportive più riconosciute e riconoscibili dell'Inghilterra, uno degli sportivi più amati insieme a Mark Cavendish, è un baronetto della regina, ha un titolo onorifico che ha solo Bill Gates e Beatles, tanto per fare qualche nome, ha vinto su pista 6 titoli mondiali e 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi, sia ai giochi di Atene che a quelli di Pechino, e adesso si è riconvertito dal 2009 sulla strada, e dopo aver ottenuto nel 2009 un quarto posto al Tour de France ed essere caduto l'anno scorso e quindi costretto al ritiro, quest'anno ha veramente grandissime possibilità di vincere il Tour de France e quindi portare una maglia gialla all'Inghilterra, che forse qualche anno fa era assolutamente impensabile. Invece ormai nel ciclismo non si parla più il francese, che fino a qualche anno fa era a tutti gli effetti la lingua ufficiale del ciclismo. Ormai la lingua ufficiale del ciclismo è diventata a tutti gli effetti di miseria. Pier, grazie. Naturalmente vi rimando alle prossime edizioni dei giornali radio di Radio 24, proprio per approfondire anche un po' di più questa notizia, su questo arresto eccellente nel tour. Grazie, buon tour di nuovo, Pier Augusto. Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Naturalmente ci sarà lavoro proprio per questa ultima notizia che è arrivata, con questo arresto del ciclista francese Rémy Di Gregorio. Alcuni sms che sono arrivati, si va dagli ipocriti, sono tutti bombati, i francesi stanno ricominciando a vincere e adesso i sospetti fanno capire qualcosa, diceva Omar da Bologna. Va bene, secondo me questo è un po' esagerato, ripeto, alcune volte queste sono notizie anche positiva da un certo punto di vista, vuol dire che il doping si combatte anche in questo modo. Ho sentito l'intervento di Calamai, stiamo organizzando una grande manifestazione di basket in carrozzina a Tarquinia e ci piacerebbe essere in contatto con lui. Sul sito della Federbasket trovate i contatti di Marco Calamai. A Tempo di Sport si chiude qui, grazie naturalmente a Laura Vanossi in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Ci ritroviamo domani ancora dalle 14 alle 15 per gli aggiornamenti sul tour, i nostri radiogiornali. Claudio Arrigoni vi saluta, a domani.